si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta durante questa ora. E poi abbiamo anche Facebook, si può fare, trattino Radio 24. Siamo anche su Twitter, si può fare 24, io chiocciola Ale Maurizi. Insomma, seguiteci, tempestateci di vostre segnalazioni, domande, curiosità, notizie, buone notizie. Questa settimana è durissima perché l'ha detto anche il presidente di Confindustria Squinzi, siamo sull'orlo del baratro, economia è straferma, quindi è veramente dura. Letta ha detto, no, Letta non ha detto niente, perché ha detto le faremo sapere, come si dice ai colloqui di lavoro, si fa quel che si può. D'altra parte questa maggioranza, strana maggioranza, non si sa quanto durerà, se durerà, cosa riuscirà a fare per l'economia, per il lavoro. Intanto, in attesa di tutto questo, noi una risposta ce l'abbiamo. Parola di Flavio Briatore, ha detto a Radio 24, l'Italia ha un'unica azienda su cui investire. Noi abbiamo l'unica azienda vera in Italia che è il turismo. Se voi pensate che noi abbiamo 190 milioni di turisti all'anno, la Spagna ne ha 230. Se noi pareggiassimo solo con la Spagna, credo che abbiamo tutte le possibilità di farlo, avremmo 40 miliardi in più di ingresso, vorrebbe dire due finanziarie. Butad del fondatore delle Billionaire, oppure una proposta decente una volta tanto. 800 24 00 24, chiamateci e diteci la vostra su questo. Aggiornamento no slot, perché la Liguria e Genova spingono il piede sull'acceleratore e insomma il TAR ha dato ragione al comune di Genova. La distanza di 300 metri tra le macchinette, i luoghi sensibili, scuole, luoghi di culto e ospedali e annessi e connessi, vale anche per i videopoker che stanno nelle tabaccherie, non solo per le sale giochi. Quindi è una rete, una ragnatela di distanze che tra un po' a Genova e in Liguria insomma impedirà a un bel po' di macchinette di stare al loro posto, fortunatamente, perché si sa che insomma c'è una vera e propria invasione in questi anni di videopoker, di cui francamente non si sentiva il bisogno. Poi se uno vuole andare a giocare va alla sala giochi fuori città o dove deve stare. Un'altra notizia la vogliamo dare, viene dal governo, dicevamo governo delle larghe intese che non si sa quanto durerà, però insomma ci stanno provando. Il ministro Cancellieri è tornato sulla questione delle carceri, indegne di un paese civile, stiamo lavorando a creare insomma a lavorare sulle pene alternative, perché si sa tra l'altro quando ci sono le pene alternative, i progetti di recupero, c'è meno recidiva e insomma stiamo tutti meglio. Meno recidiva vuol dire che le persone coinvolte in questi progetti alternativi poi tendono a ripetere di meno i loro crimini, quindi è una buona notizia, va bene per tutti. Tra l'altro c'è il ministro Zanonato che è al governo, che è l'ex sindaco di Padova, che a Padova queste cose le ha sperimentate, quindi può trasferire un po' di esperienze al collega ministro Cancellieri. 800 24 00 24, adesso iniziamo, andiamo a Roma. Ma in tutto questo il solo vero risultato è che c'ho il fegato più grosso, molto più grosso. Perciò scusate se non tengo il giusto atteggiamento, scusatemi se rido e perdonatemi se piango. Mi sento usato il filtro, già ho il drenaggio guasto, qualsiasi sentimento me lo trovo scritto addosso. E manifesto, e manifesto. Manifesto in questo caso ci interessa come manifesto elettorale. Vogliamo andare a Roma, dove domani e lunedì si vota e dove la città è naturalmente anche questa volta tappezzata di manifesti elettorali, ma ahimè ci sono anche quelli abusivi. Una roba che non bisognerebbe più fare in un paese civile, ma che puntualmente ogni volta si ripropone. Abbiamo convocato per l'occasione un cittadino romano, residente del municipio 18, uno dei blogger del blog noto ai romani, Riprendiamoci Roma, dove si segnalano tutte le cose di degrado. Stefano Bolognesi, buongiorno. Buongiorno a voi. Voi che fate anche i Decoro Day una domenica al mese, cioè andate in giro proprio con i cittadini del municipio 18 a ripulire le strade, i parchi, compresi i manifesti. Come va con i manifesti elettorali a sto giro? Qualcuno ha detto c'è la crisi, ci saranno meno manifesti, invece? No, invece pare che stia risultando bene il settore. Continua a tirare, quindi ancora manifesti sui cassonetti, sulle pareti, fuori dagli spazi quelli, voglio dire, autorizzati, ci sono? Ci sarà dappertutto, anche sugli spazi autorizzati ci sarebbe da ridire. Perché? La stessa idea di utilizzare ancora delle plance arrugginite su una città a vocazione turistica. Anche questo è vero. Francamente solo a Roma è rimasto, nessuno più lo utilizza più questi sistemi. Non possiamo dire chi si è comportato meglio o peggio, perché oggi è giornata di silenzio elettorale, domani si vota. C'è sempre qualcuno. C'è un blog che si chiama Roma fa schifo, che ha fatto proprio il pagellone della campagna elettorale. Il meglio e il peggio. Non solo sulle politiche, cioè proprio come si sono comportati, sì, dal punto di vista del decoro e del rispetto della città. Voi avete da ridire anche su quei camion che girano, non so come, se hanno un nome, con i manifesti, diciamo, attaccati a mo' di vela, no? Perché poi stanno in doppia, terza fila. Questo è il problema, il camion di per sé non ha nessun problema, come il manifesto non è un problema, il problema diventa un manifesto quando è appiccicato sulla cabina dell'Enel, il camion vela è un problema quando rimane in terza fila in una città che già è soffocata. Come se non bastasse il casino di traffico che c'è a Roma, certo, poi ci si mettono anche nel mese prima delle elezioni anche questi mastini. Abbiamo chiamato lei, Stefano, perché insomma voi vi distinguete tra i tanti che si lamentano e che segnalano queste cose sui vari blog, perché poi voi nel municipio 18 andate una domenica al mese, proprio così a mo' di scampagnata, però armati di scope, bastoni nel senso, insomma, non negativo, non siete malintenzionati, e ripulite il quartiere. In alto servono anche quelli, anche i bastoni ci sono. No, ma per far cosa? Per staccare i manifesti. Ah no, ecco, no, pensavo per darlo in testa a uno beccato mentre stava scrivendo sul muro. Perché ormai hanno imparato che quelli in basso vengono staccati, allora cercano di fissarli in cima ai lampioni, insomma, sì, c'è molta inventiva. L'ultima volta siete andati domenica scorsa, se ricordo bene. Ma anche questa domenica, siamo in un quartiere vicino, c'è un'iniziativa di Retake Roma, che è un altro, le altre associazioni che si batte per il decoro della città, che sta, stiamo ripulendo un parco oggi. Un parco? Sì. Che come si chiama questo parco per i romani? È il parco del Pineto, il lato della Balduina. Ok, e so che avete in cantiere o state già facendo iniziative anche contro le cacche dei cani, che sembra una stupidaggine, in parte lo è, anzi sicuramente lo è, però è anche, no, anche fastidioso. È un problema molto sentito dalla cittadinanza. E che fate? Diciamo, questo in specifico è proprio il municipio 18 però che lo sta facendo. Ci sono dei guardiani che girano, no? Sì, ci sono delle guardie zoofile che girano, questa però è proprio un'iniziativa del municipio. Del municipio. Diciamo, sulla blog anche. Comunque a livello di idea, chiaramente non possiamo che essere d'accordo col fatto che le strade debbano essere pulite, cioè proprio è il minimo sindacale della civiltà. Beh sì, sarebbe la base, no? Poi il resto viene da sé. E noi vi ringraziamo lei, Stefano Bolognesi del municipio 18, un cittadino che partecipa a queste iniziative. Avete sentito, questa è la situazione a Roma il giorno prima delle elezioni, queste sono le iniziative fatte. 800 24 00 24, se cose del genere avvengono anche nella vostra città, raccontatecele. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il turismo dovrebbe essere il primo ministero italiano, ma non abbiamo strategie. Un anno ti fanno una tassa sulle barche, l'anno dopo sulle spiagge, poi tornano indietro. Non abbiamo regole. Chi investe in Italia non è come se tu giochi a calcio e uno può mettere un muro davanti una porta invece del portiere, perché non ci sono regole. In Italia è un paese che lo straniero vede l'Italia come un paese pericoloso, perché è un paese senza regole. E questa è la proposta di Briatore. 800 24 00 24, vi chiediamo anche che cosa ne pensate, se è una boutade, una provocazione quella del fondatore del Billionaire, che tra l'altro col turismo ci ha pure fatto i soldi, oppure se è una proposta, abbiamo detto una proposta una volta tanto, decente per rilanciare l'economia, il turismo in Italia, fare dell'Italia il parco giochi del Mediterraneo, perché no? 800 24 00 24, noi una bella storia che ha a che fare con il turismo a Napoli ce l'abbiamo tra poco. Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? La storia che vi vogliamo raccontare è quella dello zoo di Napoli e del parco Edenlandian. Ce ne eravamo occupati qualche settimana fa perché c'era in atto un piano di rilancio da parte dei cittadini napoletani per questi spazi in abbandono. si era mossa un gruppo di persone che si chiama La Napoli che vogliamo. Avevano proposto un piano di azionariato popolare per intanto rilevare dal fallimento lo zoo e poi per metterlo sul piatto per qualche imprenditore interessato. Allora, qualche giorno fa, titolo del Corriere del Mezzogiorno, 6 milioni per lo zoo, diventerà come quelli di Vienna e Berlino. Offerta dell'imprenditore Floro Flores, il giudice ottimista, Spiragli anche per Edenlandia. Ah, fantastico. Allora, noi abbiamo riconvocato la nostra Fabiana Sciarelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Una delle animatrici della Napoli che vogliamo, lei è docente tra l'altro di economia e gestione delle imprese alla Sapienza di Roma e come altri cittadini napoletani, insomma, si è un po' rimboccata le maniche su questo e altri progetti. Adesso però la notizia, insomma, sembra che ci siamo, ora poi ci sarà da mettere in piano, in pratica, le firme, le controfirme, il giudice, il comune. Quante persone devono intervenire in questa cosa, Fabiana? Sì, allora la situazione, diciamo, la questione dello zoo ha mostrato, secondo noi, una Napoli finalmente vivace, attiva, in movimento, che reagisce alle situazioni, cosa che insomma un po' dimenticato, ma che invece adesso ritorna ad essere un elemento importante. Sia l'azionariato popolare, che ha raccolto più di 5.000 persone che si sono impegnati sia economicamente che, diciamo, come forma di responsabilità, che tutti i movimenti di singoli che si sono mossi in aiuto, come ad esempio, come sai, stasera c'è il concerto fatto da Mbarka Bentaleb, che sarebbe la musicista che ha suonato in passione il film di Turturro. Che ecco, diciamolo bene questo appuntamento di stasera, certo, perché così per i napoletani, certo, stasera, che possono venire. Sì, alle 21 al Pala Partenope, il cui promosso proprio dall'artista, da Mbarka Bentaleb, e poi ha coinvolto anche moltissimi musicisti napoletani come Daniele Sepe, Enzo Gragnaniello, Maurizio Norato, eccetera, e loro faranno questo concerto, il cui ricavato andrà totalmente allo zoo, all'Edenlandia, soprattutto per la questione degli animali e l'alimentazione degli animali, che insomma ancora è in crisi, perché la proposta è stata fatta ma ancora non è passata. Certo, finché non si vedono cose concrete, è chiaro che la situazione di abbandono e di degrado va tamponata. Sì, dall'altro, va tamponata fino a che, diciamo, non va in porto questa, esatto, l'operazione, sì. Che è un'offerta molto interessante, perché oltre a una questione economica, perché anche sentivo, parlavate prima di turismo, perché sì, ad esempio immagina all'interno dello zoo un'antica villa, che è la Villa Leonetti, nel progetto da ristrutturare diventerà un piccolo albergo per i bambini che vorranno venire a fare l'attività. Ah, beh, insomma, zoo, quindi insomma, è qualcosa di più del semplice zoo dove si va pagando i 4 euro andando a vedere gli animali. Esattamente, il progetto è molto molto tra l'altro bello. Diciamo anche questa cosa che l'altra volta Fabiana Sciarelli aveva ricordato giustamente: Napoli, lo zoo, un binomio non a caso, perché Napoli è forse la città in Italia dove ci sono più bambini. Sì, è la città più giovane d'Italia, ma è abbastanza evidente anche girando per le strade, ma poi insomma sono le statistiche che parlano. Abbiamo molti figli e abbiamo molti giovani. Poi purtroppo, diciamo, nell'età adulta vanno via, perché appunto non ci sono tantissime opportunità, però insomma quelli che restano... È chiaro che una città come Napoli è una opportunità, non dico la principale, ma insomma una delle tante. Certo, non si vive di solo turismo, come dice Briatore, però dovrebbe vivere anche di turismo sicuramente. E progetti come questo insomma daranno una mano. Ricordiamo però anche il percorso col quale si è arrivati a questo, e anche il ruolo che state giocando voi, un gruppo di quante persone che si sono messe in gioco con La Napoli che vogliamo? 3.100 professionisti, in realtà la cosa è nata come i cervelli che restano, invece si parla sempre di cervelli in fuga, noi siamo invece quelli caparbiamente sono rimasti qui, volontariamente chiaramente. Fanno meno notizia spesso, perché si parla di quelli che vanno via, però invece sono molto più utili. Sono qui anche perché lavorano, del resto anche l'imprenditore che è un imprenditore locale, vorrei importante, perché si era parlato di un investitore inglese, se non ricordo male. Svizzero. Invece lui è napoletano, vive a Napoli, quindi è proprio la città che si è mossa. E il nostro progetto è un progetto, diciamo, che in qualche modo intervenire da un punto di vista professionale nelle varie situazioni, anche quotidiane che ci sono all'interno della città con un piano industriale, ed è un progetto che evidentemente sta interessando, perché attorno al quale si stanno, oltre a noi, ci sì. sono molti movimenti, gruppi, associazioni che si sono aggregati, quindi siamo diventati ancora più grossi. Insomma, è importante tutto questo che ruota attorno a un progetto imprenditoriale che poi dovrà esserci, quello di, insomma, dell'imprenditore che rileverà lo zoo. Queste associazioni sono importanti perché, mi diceva Fabiana, un domani potrebbe da questo movimento che c'è stato nascere per esempio un'associazione che può fiancheggiare il lavoro dell'impresa vera e propria dello zoo per creare attività, mantenere, insomma, l'interesse e rendere vivo il progetto Edenlandia. Infatti l'obiettivo principale comunque che ha il gruppo è quello di essere uno stimolo, uno sprone all'amministrazione locale o agli imprenditori privati, perché ambedue, ci tengo a sottolineare, sono abbastanza latitanti sul nostro territorio, anche gli imprenditori privati, e di fare da sprone e da stimolo anche dal punto di vista professionale, anche offrendo il loro lavoro appunto volontariamente, gratuitamente, per risolvere delle questioni e quindi un po' spianare la strada per poi la risoluzione del problema finale. E tra l'altro, insomma, se tanto mi dà tanto, visto come sta andando su questo progetto nel quale vi siete buttati, una soluzione si sta trovando, quindi se andate avanti così, infatti, tra un po' Napoli risorgerà completamente. Qual è il prossimo step? Dove volete? Prossimo step, abbiamo definito un'area della città, non grande, non un quartiere, un po' più piccolo di un quartiere, che a breve dovrà diventare un'area a misura di bambino, in cui i bambini potranno ritornare ad andare a scuola. Che zona è? È all'interno del quartiere Chiaia ed è una parte anche ferita, perché c'è stato un crollo da poco sulla diviera di Chiaia. Giorgio De Luca, che in redazione è il nostro napoletano, la zona di Chiaia, segnatela, perché questa diventerà la zona pedonale, perché questi di Napoli che vogliamo non scherzano, quando si mettono in testa una cosa ci provano, ma spesso ci riescono. Almeno questo è quello che sta succedendo per il progetto Edenlandia, lo zoo di Napoli. Torneremo a certificare quando ci sarà l'acquisizione, insomma, speriamo di non aver messo le mani troppo avanti, il carro davanti ai buoi, speriamo di no. Intanto grazie a Fabiana Sciarelli per essere stata con noi. Benissimo, queste sono buone notizie che vengono da Napoli. Adesso invece qualche amenità italiana. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Italia sì, Italia no, Italia boom, la terra di cachi. Ecco, intanto c'è questa notizia che non so se ha a che fare col turismo, il turismo del paranormale forse. A Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, il comune ha chiuso il bando per vendere il castello. L'antico maniero costruito da Papa Niccolò III Orsini del 1200, che ha una particolarità però, ci sono i fantasmi dentro, cioè ci sono gli spiriti, e c'è un gruppo, un'associazione che sta lavorando, pagata dal comune, per prendere nota, rilevare anche l'audio degli spiriti, e pare che l'abbiano trovato. Non il leggendario fantasma Marcello di cui si tramanda la storia di generazione in generazione, piuttosto una madre a cui venne strappato dalle braccia un bambino. Il pianto disperato del piccolo, i suoi gemiti sono stati ascoltati distintamente da tutti i quattro medium che in differenti occasioni ci hanno aiutato nei sopralluoghi. Questo è quello che certificano i Ghostbuster di Soriano nel Cimino. Non lo so, spiriti o marketing del comune, questo è quello che accade in provincia di Viterbo. Quest'altra qua è bellissima. A Barcellona, un giovane spagnolo di Alicante, questa è un'amenità spagnola, Enzo Vizcaino, aspirante giornalista, si è messo in metropolitana a suonare una canzone scritta da lui, era il suo curriculum. Sentiamo. Formazione complementaria, periodismo, vuole fare il giornalista. La cosa straordinaria è che dopo aver messo questo video su YouTube, che insomma ha cominciato a girare, a rimbalzare, se non altro per la faccia tosta di questo ragazzo spagnolo, che ha ricevuto un sacco di messaggi, non solo di solidarietà, ma anche di offerte di lavoro. Quindi voi che mandate il curriculum normalmente via email, sappiate che siete indietro, bisogna cambiare strategia. E questo ragazzo spagnolo qua ce l'ha fatta. Adesso, tra poco, dopo la pausa, invece andiamo qualcosa di meno ameno, manager esperti che aiutano aziende in difficoltà. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, oggi ci siamo, mi sono dimenticato di aggiornare su Twitter, però ci siamo, si può fare 24, invece cercateci su Facebook perché li stiamo aggiornando via via coi temi della puntata. Poi voglio mettere anche le foto di Roma, del degrado, abbiamo sentito quelli di Riprendiamoci Roma e di qual è la situazione relativamente ai manifesti elettorali abusivi in questa città. 800 24 00 24 al numero verde, ci ha chiamato proprio da Roma Daniele, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Senta, allora io le do un'informazione di quelle proprio da far venire l'orticaria. Allora, il caro sindaco Alemanno ha fatto un paio d'anni fa un'ordinanza che si chiama per il degrado urbano di una città chiaramente che cade a pezzi. Allora, tutto il problema di Alemanno è quello dei volantini sulle macchine, per cui le assicuro che se uno mette un volantino su una macchina prende un verbale di 450 euro a volantino. Però allora, i manifesti abusivi elettorali quelli ci sono. Tutte le piccole associazioni, tutto l'indotto delle tipografie, le cose, io personalmente con una scuola di danza, abbiamo preso migliaia di euro di multa perché hanno fatto addirittura una tassa. Cioè praticamente se il vigile passa, vede il volantino della scuola di danza e vi chiama e vi fa la multa. 450 euro a volantino. Beh, devo dire che anche quella dei volantini, mi scusi, non vorrei infierire, però non è una cosa, cioè capisco che sia una roba di marketing, però a volte un quadro di soldi per l'AMA, quindi se questo serve a portare avanti quel poco che resta dell'associazionismo delle scuole di danza, di quello, di tutto quello che è ricreativo, ben venga. Vabbè, dice lei, un modo come un altro, sì. I politici si sono fatti una sanatoria per cui sì, per tutti è vero, i loro manifesti elettorali, per tutte le multe possibili, con 7.000 euro sanano tutto. Questo purtroppo è vero. Vabbè, e adesso insomma hanno cominciato con i volantini, per cui tutti i sindaci fanno pubblicità con i volantini sulle macchine laddove esiste una ordinanza di un sindaco che vieterebbe ai sindaci e a tutti gli altri di fare i volantini. Io però scommetto che mentre la sua azienda possono venire a cercarla, sì, mentre la sua azienda possa venire a cercarla, il politico di turno ci sarà sicuramente un cavillo per cui non può essere perseguito. Perseguito per questo, sì. Grazie, ecco, Daniele. Sì, da Roma. Ci spostiamo invece a Modena. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei per cosa ci aveva chiamato? Ho chiamato perché volevo intervenire su Briatore, sì, essendo l'unico imprenditore che dice le cose senza peli sulla lingua. Quindi io sono un piccolo imprenditore di Modena, stiamo iniziando a portare cinesi in Italia con dei gruppi. Sì. E quindi sono pienamente d'accordo su quello che dice. Cioè lei va proprio in Cina a prenderli, li prende per la collottola e sì, porta qua. Esatto. Cioè prima che vadano in Spagna o in Francia. No, dico prima che vadano in Spagna e in Francia li intercettate e li portate, li dirottate sull'Italia. Che no, non abbiamo direttamente, abbiamo un filo diretto. Insomma, quante persone ci lavorano in questa sua azienda? Quattro persone, siamo piccolini. Vabbè, però insomma ci sono i piccoli, ci sono i grandi, ce ne sono tanti di piccoli. Grazie Enrico per la sua testimonianza. 800 24 00 24, tra poco, altre telefonate. Inclusive mental anguish. Tackle the fence from present to the past tense. Reenactment on lyric battle advancement. Play enhancement, paramount, smash mouth. Acting out a character and lash out with music for the drought. We even breathe raw, underground, up and down like a seesaw. Banging like C4, chopper horror, see more. Outsourcing the boss, toss the corpse off the porch. Put a knock in J in a human torch. The recording of the year. Abbiamo scovato in rete da qualche parte questa canzone che si chiama Back to Work, che è esattamente il titolo del progetto e anche l'indirizzo online Back to Work, scritto in inglese.it, di cui vogliamo parlare. Forse ne avrete sentito anche qualche inserzione pubblicitaria proprio su Radio 24. Non importa, ce ne infischiamo, del resto l'iniziativa vale di essere raccontata e spiegata, perché è un luogo nel quale si incontrano manager, esperti, aziende in difficoltà, e in questo periodo capirete come insomma una roba del genere non potevamo non parlarne. E allora abbiamo convocato qua il fondatore, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Fondatore e oggi amministratore delegato di Back to Work 24, anche se il sito è ancora backtowork.it, Carlo Bassi, buongiorno Carlo. Buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, prima di tutto un progetto che è online da circa un anno, come funziona? Io ho detto così, diciamo maldestramente, spiegacelo bene. Sì, te lo spiego, è semplice. Noi abbiamo valutato che c'era ormai una quantità che conta decine e decine di migliaia di lavoratori professionisti, parliamo di manager ma anche di lavoratori comunque qualificati e maturi, che vengono lasciati a casa e che rappresentano un capitale umano straordinario di esperienza professionale che in qualsiasi altro paese verrebbe valorizzata e che oggi è inutile fare chiacchiere, non hanno la possibilità reale se non una percentuale minima di ritrovare lavoro. Dall'altra parte contemporaneamente abbiamo centinaia di migliaia, se ne calcolano 4 milioni e mezzo in Italia, di piccole imprese, non parlo delle medie e delle grandi, le piccole sono quelle da 0 a 5, 6 milioni, 7 milioni di euro sì. di fatturato, che avrebbero bisogno sicuramente di un po' di finanza, perché qui bisogna dirlo sempre con franchezza, ormai le banche non danno più una lira a questi soggetti, ma soprattutto hanno bisogno di competenze, che sono quelle che probabilmente le hanno portate nella situazione di difficoltà, perché parlare solo della crisi economica senza dire che probabilmente queste imprese non si erano strutturate per fare un salto di qualità è l'altro aspetto. Il portale li mette insieme e poi l'organizzazione che abbiamo creato attorno al portale segue i due interlocutori affinché possibilmente arrivino a concludere un accordo per cui il manager diventa anche imprenditore, ma continua a fare il manager portando la sua esperienza in piccole aziende che spessissimo rappresentano prodotti, progetti che possono andare in giro per il mondo e svilupparsi, ma hanno bisogno appunto di denaro e competenze. Insomma, è una soluzione concreta per risolvere tanti problemi di queste piccole aziende di cui si parla e si riempiono ogni giorno i giornali dicendo quello che non va, quello che bisognerebbe fare, però devo dire che onestamente di idee concrete per fare qualcosa, per risolvere qualche problema, se ne vedono poche. Questa è una di queste. Uno poi potrà dire serve, non serve, mi piace, non mi piace, però è un'idea concreta, la mettete in pratica e tra l'altro avete già raggiunto un montante di manager e anche quindi di potenziale liquidità. Ma sì, guarda, pochi giorni fa abbiamo superato i 116 milioni di euro di potenziale disponibilità di denaro dei nostri manager da mettere nelle piccole aziende. Credo di poter dire senza essere smentito che oggi Betwork è già diventato il sistema più efficace per portare denaro privato, perché questo è l'altro problema che abbiamo nel nostro paese, di nuovo al lavoro e alle imprese. Non c'è possibilità di fare selezione più facile che non vedere i profili dei manager da una parte e delle aziende che abbiamo in quantità, ormai siamo a diverse sì. centinaia, stiamo crescendo a decine al giorno, per trovare gli uni e gli altri. Diciamo anche cosa ci guadagnate voi da tutto questo, per trasparenza. Noi facciamo un lavoro in cui accompagniamo e quindi molto sì. consulenziale, abbiamo un team di esperti, noi abbiamo tutta l'operazione è salvo buon fine, quando le due parti concludono noi abbiamo una percentuale che si aggira intorno al 5%, quindi una remunerazione sempre e solo salvo buon fine. E sul servizio appunto svolto. Ci sono dei progetti su cui si può raccontare qualcosa di concreto in questo primo anno di insomma. Ma guarda, noi abbiamo chiuso diverse operazioni, un'azienda del Veneto che faceva piccoli componenti per prodotti auricolari di grandi multinazionali, perché sì. poi noi abbiamo questi primati, magari abbiamo una piccola azienda ma che serve grandi multinazionali, che aveva bisogno di un manager per andare a allargare i mercati all'estero e recentemente hanno chiuso un accordo per cui il manager ha preso il 35% della società investendo circa 170.000 euro. 170.000 euro o 200.000 euro sono quelli che dopo 30 anni di lavoro, 25, è un po' la tua liquidazione, un sì. po' la tua buona uscita. Perché poi diventa un modo per questi manager di non solo di, diciamo, come avviene a volte con certi capitali che vengono messi lì per magari fruttare nel giro di un anno o due, ma diventa un investimento, capite, anche di una liquidazione, quindi è un coinvolgimento che promette bene, perché non è solo speculativo, ma è un investimento di lungo periodo che è proprio quello che serve alle aziende, no? Per crescere. Ma sai, noi ci siamo dati un sottotitolo, investi nel tuo lavoro. Oggi la vera cosa importante per tutti, per imprenditori e per professionisti, lavoratori, siccome è cambiato il mondo, è cambiato non solo per la crisi, ma è cambiato strutturalmente, è quello che le nostre capacità intellettuali e il nostro denaro invece magari di finire in troppi rivoli delle banche, bot, CCT e quant'altro, deve tornare assolutamente al lavoro, a sostenere l'economia. È chiaro che finché la speculazione o comunque la finanza retribuita, che non si sa esattamente insomma dove vada a finire, rende più di questi investimenti nell'economia reale, capirete che è difficile poi parlare concretamente di ripresa. Noi ci abbiamo provato, grazie Carlo a Bassi, fondatore di Back to Work, amministratore delegato di Back to Work 24, per essere stato con noi. Questa è una bella storia. Abbiamo il tempo per sentire un ascoltatore prima del traffico? Sì, dai, velocemente. Maurizio da Roma, buongiorno. Mi sente? Sì, forte e chiaro. No, perché c'ho la radio accesa col telefonino. No, la radio, allora, la spenga, volevo... perché così la sentiamo meglio. Senza radio, prego. Praticamente sono d'accordo con Briatore, che lui parla di un turismo, quello che è ecosostenibile, diciamo, perché bisognerebbe innanzitutto aumentare la fruibilità del territorio e magari togliendo tutti quei villoni che ci sono in Sardegna, tra cui ci sarà pure quello suo o i suoi villoni. Togliere i villoni. Quindi, lei dice? I villoni sardesi. I villoni, sì, quelli che... Lei è stato mai in Sardegna? Sì. Vale, ci sono intere porzioni di costa che sono occupate da ville gigantesche che impediscono l'ingresso in mare, come lei sa perfettamente, al turismo, diciamo, quello normale. Beh, insomma, bisognerebbe quantomeno smetterla di costruire insomma quelli che poi diventano molto velocemente degli ecomostri lungo le coste. Questo sicuramente sì, ci sono delle leggi, però sappiamo anche che spesso invece si sta andando avanti tristemente, mestamente su questa direzione. Certo che se questo diventa il paesaggio italiano è difficile poi puntare sul turismo. Si può fare cronache da un paese migliore. Ci scrive Claudia da Genova al 349-238-6666. Ma se non abbiamo lavoro il nostro territorio si sta distruggendo, perché non dare terreni a ragazzi che possono lavorare e mangiare coltivando, mentre il territorio pulito viene recuperato? In Liguria, ad esempio, tutti i terrazzi o fasce da ricostruire. Poi il messaggio è interrotto perché finiva lo spazio a disposizione di Claudia da Genova. È vero, questo l'abbiamo detto anche altre volte, tra l'altro non c'è solo la Liguria, c'è anche la Toscana con la Banca della Terra che sta facendo la stessa cosa, si va nella direzione di recuperare il territorio, il terreno, per metterlo a frutto per esempio anche dell'agricoltura. E sicuramente meglio così che costruirci sopra qualche bruttura che il turismo lo blocca sicuramente di più che non un bel agriturismo, ma queste sembrano quasi banalità e luoghi comuni, però poi a parte Briatore ho sentito poche volte qualcuno dire chiaramente questa roba qua. Maurizio da Roma, buongiorno. Ecco, sono tornato, mi sente? Sì. No, stavo finendo la storia. Abbiamo recuperato l'ascoltatore di prima, pensavo che fosse un altro. Sì. Io per esempio faccio il mio esempio, io vivo a Roma e ovviamente nel traffico, nel caos, quando ho bisogno di vivere il mio momento di vacanza, per raggiungere un posto, diciamo, incontaminato, dove vedo solo alberi, mare, spiaggia, mi tocca arrivare fino all'Argentario oppure a Sabaudia. Vabbè, non si lamenti, perché non è che all'Argentario e a Sabaudia si sta male. Vabbè, Maurizio, grazie. In realtà volevo dare spazio a qualche altro ascoltatore, se ce la facciamo, se no non importa. Adesso la festa dei comuni virtuosi. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo, non credo. La festa dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, abbiamo convocato qua il coordinatore dell'associazione, ben noto agli ascoltatori di Radio 24 di Si Può Fare in particolare, Marco Boschini. Buongiorno, ben ritrovato Marco. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di tutto diamo le coordinate della festa che si tiene in provincia di Reggio Emilia. Dillo tu perché il nome non è facilissimo. Sì, si chiama Taneto di Gattatico ed è in provincia di Reggio Emilia, e il circolo che ci ospita è il Fuori Orario, arcifuori.it. Perfetto, due giorni, oggi e domani, no? Sì, due giorni, abbiamo già iniziato in realtà con un'anteprima alla scuola di altra amministrazione, di cui abbiamo già parlato con te la tua trasmissione. E poi oggi entriamo nel vivo del programma con Riccardo Iacona, del quale presenteremo il libro che tanto ha fatto discutere, Se questi sono gli uomini, sulla violenza delle donne, un tema, ahimè, di cronaca quotidiana purtroppo. E verrà premiato come giornalista virtuoso dell'anno, E poi musica con un concerto, con una cover band di Rolling Stone e Beatles, ma soprattutto loro, i protagonisti, i comuni, ecco. 40 stand di comuni da tutta Italia. Quanti sono i comuni virtuosi adesso riuniti nell'associazione che, ricordiamolo in due parole, raccoglie i comuni che sono virtuosi sotto alcuni profili, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità, l'efficienza energetica? Non è facile entrare, eh? Sono quasi tutti comuni piccoli, perché i comuni grandi questi temi li affrontano forse più malvolentieri e più difficile. Quanti comuni siete adesso, Marco? Dall'ultima volta che siamo sentiti siamo cresciuti, ci sono stati altri 4-5 ingressi, siamo intorno ai 70 comuni. E domani tra l'altro faremo il direttivo e ne verranno accolti altri 3, adesso, per dire che piano piano lentamente cresciamo. La rete cresce ed è importante, in tutta Italia tantissime belle pratiche, le abbiamo raccontate più volte, le trovate sul sito dell'Associazione Comuni Virtuosi, potete andare alla festa, entrare nel clima. E poi Marco, voglio dire anche questo, tu sei uscito adesso con un libro proprio nello spirito delle buone pratiche, però questa volta cerchi di prendere per mano anche il semplice cittadino. Sì, semplice ovviamente tra virgolette, nel senso che ognuno di noi spesso si dimentica del potere che ha di cambiare le cose. Questo momento che stiamo vivendo ci porta alla rassegnazione, al dire no, chi ce lo fa fare. Nel libro Nessuno lo farà al posto tuo, che ho appena pubblicato per l'editrice Missionaria Italiana, invece racconto di storie di persone normali, apparentemente normali, che però stanno facendo delle cose straordinarie e che stanno dimostrando appunto che, in attesa che la politica maturi e che cambi il suo modo di fare, soprattutto a livello nazionale, dal basso, tutti i giorni, nelle nostre scelte quotidiane, si possono fare cose assolutamente virtuose. Tu vieni dalla provincia di Parma e mi raccontavi prima di fare l'intervista che uno di queste storie viene proprio da Parma. Sì, assolutamente, è la storia di un ragazzo, Andrea Saccon, che si è inventato un nuovo lavoro, la sua azienda è andata in crisi, l'ha messo in cassa integrazione, lui non si è demoralizzato, ha messo in campo la fantasia, che è questo potere straordinario che abbiamo tutti nelle mani ma che a volte appunto non ci ricordiamo di utilizzare, e si è messo a vendere frutta e verdura in bicicletta, attivando un vero e proprio gruppo d'acquisto, per cui le famiglie, la mia famiglia fa così, acquista, fa l'ordine online qualche giorno prima, poi le cose scelte vengono portate a casa in bicicletta, quindi a mobilità sostenibile, a zero impatto ambientale, sono prodotti biologici, filiera corta, e adesso lui vive di questo, e quindi per dire che anche in un momento di crisi, se si vuole, si può provare ad uscirne. Sembra di tornare alle storie di una volta, questa è un po' la chiave, l'abbiamo sperimentata anche noi qua, si può fare tante volte, però in realtà non è mai un tornare indietro, ma è un andare avanti in modo diverso. Marco, visto che sei il coordinatore dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, che ci dà tante soddisfazioni, ci dicevi che stanno per entrare nuovi comuni, raccontaci qualche buona pratica dei nuovi comuni che stanno entrando, abbiamo un minuto così diamo anche il senso della direzione di marcia. Sì, la direzione di marcia è sicuramente la sostenibilità, il comune di Agerola in provincia di Napoli che è un neo socio, i comuni di Boves in provincia di Alessandria, il comune di Corinaldo in provincia di Ancona, sono tutte amministrazioni che hanno fatto della gestione del territorio a crescita zero il loro punto di forza, dove la raccolta differenziata è oltre il 75%, dove soprattutto si praticano delle azioni coinvolgendo i cittadini. È questa il cambio di direzione, ne parleremo anche domani nel dibattito più politico con Civati, con Pizzarotti, sindaco di Parma, con Giulia Innocenzi e con tanti altri ospiti. Dobbiamo mettere al centro la sostenibilità. In Italia ci sono tantissimi comuni che questa scelta l'hanno fatta. La stanno già facendo. E voi siete lì per ricordarcelo. Grazie a Marco Boschini, coordinatore della Associazione Comuni Virtuosi, Nessuno lo farà al posto tuo, il libro EMI Edizioni, e la festa invece l'abbiamo ricordata oggi e domani in provincia di Reggio a Taneto di Gattatico. Noi ci fermiamo qua anche per oggi, io ringrazio Giorgio De Luca, Franco Piantanida, Andrea Piana che ha scritto come il programma, Carmelo Lauricella in regia, ci sentiamo domani a mezzogiorno, a me mi trovate su Twitter, @AleMaurizio. Turismo dovrebbe essere il primo ministero italiano, ma non abbiamo strategie, un anno ti fanno una tassa sulle barche, l'anno dopo sulle spiagge, poi tornano indietro, non abbiamo regole, chi investe in Italia non è come se tu giochi a calcio e uno può mettere un muro davanti una porta invece del portiere, perché non ci sono regole. In Italia è un paese che lo straniero vede l'Italia come un paese pericoloso, perché è un paese senza regole. Si può fare. Cronache da un paese migliore.